Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è l'ultimo giorno d'agosto, finisce ufficialmente l'estate, anzi direi ufficiosamente finisce l'estate perché poi dobbiamo arrivare al 21 settembre, ma ufficialmente finisce il calciomercato. Sto seguendo le dirette, in particolare quelle di Sky Sport 24, Franco Piantanida sta monitorando in tempo reale agenzie e siti, se qualcosa succede nella prossima ora sarete informati tempestivamente, fermo restando che alle 19 in ogni caso l'arbitro del calciomercato darà il triplice fischio di chiusura. Per il momento in mattinata notizie ufficiali: perfezionato da parte della Juventus l'accordo per l'acquisto di Elia dall'Amburgo, sono 9 milioni pagabili in 3 rate, come precisa ufficialmente la Juventus. Poi c'è questo scambio ufficiale tra Cuca Viviano tra Genoa e Inter, che però lascia le cose come stanno, nel senso che l'agenzia recita che è stato ufficializzato questo scambio di proprietà con proprietà tra Genoa e Inter per i due giocatori. Cuca ha firmato con l'Inter un contratto sino al 2016, ma continuerà a vestire la maglia del Genoa. Stessa situazione per Viviano, che come sapete sta seguendo una riabilitazione dopo un grave infortunio e proseguirà la terapia riabilitativa sempre a Milano. Prima c'è dunque la Lazio che ha ceduto Foggia alla Sampdoria, il Cagliari ha acquistato Rui Sampaio, classe 87, che è un centrocampista portoghese proveniente dal Beiramar, e il Siena ha preso Gonzalez dal Palermo, e questo introduce una di queste anomalie, possiamo chiamare, credo anche follie, del calciomercato italiano di quest'anno. Perché? Perché Gonzalez, che era un giocatore del Novara e che ha finito campionato del Novara, è stato acquistato dal Palermo il mese scorso, due mesi fa, comunque in quest'estate, e è già stato girato al Siena. A proposito di calciatori bandiera, no? È stato un transito abbastanza rapido, ma non è l'unico di quest'estate, perché Ziegler, per esempio, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria, è stato acquistato dalla Juve, anzi è stato il primo tra i primissimi acquisti dei tanti che ha effettuato la Juventus quest'estate, ma è già in partenza con probabile destinazione turca al Trabzonspor. E non è finita, perché anche Piovaccari, centravanti del Cittadella, acquistato dalla Sampdoria, adesso è già in uscita dalla Sampdoria in direzione Parma. Insomma, diciamo che anche queste anomalie contribuiscono, a parer mio perlomeno, insomma, a rendere sempre un tanti movimentato, senza dubbio, forse anche divertente entro certi limiti, ma insomma abbastanza come dire, credibile sino a un certo punto tutto questo movimento. Nel frattempo, cioè seguendo lo sviluppo di queste notizie, vorrei sviluppare con voi l'argomento su cui ci siamo già misurati ieri, che ha registrato molti i vostri interventi in diretta, ma poi anche per iscritto nelle ore successive fino a questo momento, e cioè la forbice che si sta creando in Europa tra i grandi club e il resto del gruppo. Lo scorso anno abbiamo vissuto, perlomeno per molti mesi, un campionato molto più equilibrato del previsto e dei precedenti. Parlo di Italia. Poi ovviamente alla fine i distacchi ci sono stati, ma non così clamorosi come invece ci sono stati all'estero. Quest'anno questi distacchi all'estero nell'Europa che conta minacciano proprio di essere ancora più vistosi. E allora chiamerei in causa Nicola Roggero da Sky. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Senti, allora intanto per cominciare ti domando scusa se per qualche minuto ti distraiamo dai tuoi adorati mondiali di atletica che stai seguendo per passione innanzitutto, ma anche per Sky, e forse anzi partirei da lì. Facciamo così, è vero che non sempre si può vincere, ed è vero che a un mondiale, lo dice la parola stessa, partecipano tutte le nazioni del mondo, però diciamo che non sta andando benissimo per l'Italia. Tu sei un gentiluomo, Gigi, non sta andando benissimo, è veramente un sottile eufemismo, è un disastro, e la cosa peggiore è che è un disastro pienamente annunciato. Non c'erano grosse speranze, siamo adesso legati all'estero della piccola grande Di Martino, che col suo 1,69 m potrebbe farci sognare nell'alto, l'ha già fatto ad Osaka vincendo il bronzo 4 anni fa, Ieri notte abbiamo tifato per la Cunese Rigaudo, che dopo essere tornata dalla maternità è riuscita a finire quasi sul podio, è finita quarta nella 20 km di marcia. Abbiamo avuto l'ottavo posto di Vizzoni, che ha 38 anni, nel martello ancora fa qualcosa, e il resto è veramente un disastro. Basta un dato: nelle gare in pista, nelle gare di corsa, quindi ostacoli compresi, l'Italia tra uomini e donne ha presentato 3 elementi e anzi tutti gareggiati sono già tutti fuori. E quando insomma si presenta in pista soltanto 3 elementi, vuol dire che evidentemente la salute di questo sport è davvero deficitaria. Non mancano i campioni, mancano proprio gli atleti. Manca la base, eh? Sì, purtroppo sì. Manca un po' la base, e quindi no, appunto, non si parla di vaga delusione, si parla di flop in piena regola. Ci dobbiamo aspettare qualcosa ancora, forse stanotte, da Di Martino? Sì, la Di Martino stanotte comincia la qualificazione appunto nel salto in alto, poi la finale sarà sabato, e direi che è la nostra unica vera speranza di medaglia. La Di Martino quest'anno ha già vinto gli europei a livello indoor, è una gara che a livello europeo dice molto, perché è una delle poche gare dell'atletica dove sostanzialmente il meglio sta proprio in Europa, quindi aver vinto gli europei indoor è un buon biglietto da visita. Dovrà vedersela con la croata Vlasic, che è la stella di questa specialità, ma che viene data in condizioni fisiche relative, perché reduce da un piccolo infortunio che ne aveva addirittura messo in dubbio la partecipazione, e soprattutto con la russa Cicerova, che quest'anno è la migliore al mondo con 2,07 m. Io credo che la Di Martino abbia le chance di arrivare a una medaglia, anche lei purtroppo ha avuto dei problemi fisici, certo sono comprensibili, una ragazza alta appena 1,69 m ed è la primatista mondiale di differenziale, perché lei è arrivata a saltare 2,04, quindi salta 35 centimetri sopra la propria altezza. Quando si sfidano delle ragazze che invece sono 1,85 m, 1,90 m, è abbastanza evidente che lo sforzo che fa la Di Martino è spaventoso. Però è una grande combattente, una grande agonista, e insomma io spero davvero in questa ragazza, che tra l'altro è splendida, perché insomma accetta sempre vittorie, sconfitte, infortuni, guai con il sorriso sulle labbra, quindi sarebbe davvero un bel regalo per lei, per l'atleticatura, riuscisse a salire sul podio con grande serenità. Senti, è un bel regalo quello che è capitato a Paolo Bettini, il commissario tecnico azzurro di ciclismo, una notizia appena battuta nell'agenzia, nel senso che gli è andata molto ma molto bene, era su un ultraleggero con un'altra persona che è precipitato in mare al largo di Piombino, e insomma questo ammaraggio di emergenza che ha avuto un lieto fine, perché i due si sono salvati, sono stati soccorsi prima da un peschereccio e poi da una motovedetta della Guardia Costiera, parliamo di pochi minuti fa, ora si trovano, sono in viaggio per l'ospedale di Piombino, ma insomma solo, a quanto pare davvero solo, per accertamenti. Altra notizia, mercato, perché oggi, vi ripeto, è l'ultimo giorno, quindi interpoliamo, no? queste novità. Cessione a titolo definitivo per Santon al Newcastle, all'Inter vanno 6 milioni di euro, e questo è un altro affare concluso. Tra poco, pertanto ormai siamo vicini al traffico, tra poco, caro Nicola, arriviamo appunto a questo argomento di base, e insomma a questa partenza a tutto gas di United e City, che poi già la terza giornata con i motori messi un pochino più a punto ha prodotto addirittura 13 gol in due, e giocando contro le quarte e le quinte forze del campionato grosso modo, come sono Tottenham e Arsenal. Torniamo allora in compagnia di Nicola Roggero. Il Manchester United, che dà 8-2 sul suo campo all'Arsenal, è un 8-2 che equivale grosso modo, non lo so, a un Milan-Napoli che finisca con quel punteggio, no? Poi correggimi tu se sbaglio. Mentre il City, che ne fa 5 in casa del Tottenham, è, non so, l'Inter, oppure, non so, oppure diciamo il Napoli, che è la nuova grande di questo periodo, che va a vincere con 5 gol per 5-1 sul campo di una grande tradizionale, che potrebbe essere la Fiorentina piuttosto che la Roma. Segno di spettacolarità o segnale inquietante di forbice sempre più ampia? Io sono per la seconda ipotesi, quindi come tale fosse nel campionato inglese mi preoccuperei parecchio. Il City è diventato grande certamente con il lavoro di Mancini, per carità, ma con la quantità impressionante di soldi che lo sceicco arabo Mansour ha investito in questa squadra negli ultimi 3 anni. Basta pensare a cosa sono costati insieme gli acquisti di Dzeko, di Agüero, di Tevez e di tutti quanti, di Nasri recentemente, tutti i giocatori che il Manchester City ha messo insieme. Manchester City, la Ford dello United, che invece di soldi ne ha un pochino meno, anche per la situazione debitoria in cui la famiglia Glazer ha costretto il club di Old Trafford. La Ford dello United continua a essere questo vecchio signore in panchina che quest'anno ha avuto la bella pensata di richiamare dei giovani talenti del vivaio che erano stati prestati fuori, si chiamano Welbeck, si chiamano Cleverley, gli ha aggiunto Ashley Young che è un 22enne preso dall'Aston Villa, gli ha aggiunto un 20enne preso dal Blackburn, Phil Jones, li ha buttati in prima squadra e questi hanno subito risposto come se all'Old Trafford ci giocassero da 10-15 anni. Sì. Oh, per fare questo ha messo in panchina gente che si chiama Giggs, che si chiama Berbatov, che si chiama Hernandez, quindi insomma che anche una notevole dose di coraggio. Però ripeto, segnale allarmante per il campionato inglese, perché quando una squadra che addirittura rappresenta l'Inghilterra in Champions League come l'Arsenal viene letteralmente demolita per 8-2, vero, c'era della sede dell'Arsenal, ma sempre 8-2 rimane, a un certo punto sembrava veramente Juventus-Borgorosso Football Club la partita, e quando il Manchester City va a vincere contro il Tottenham, che l'anno scorso ha raggiunto i quarti di Champions League, quest'anno in Europa League è comunque una delle 5-6 squadre più forti, e vince 5-1 addirittura in trasferta, io credo che ci sia dovrà abituare a una diarchia che però solitamente vuol dire povertà poi di spettacolo, perché vuol dire che ci sono due partite importanti tutto l'anno e il resto poca altra roba. Questo è molto vero. Dunque, Barreto dall'Atalanta al Palermo. Alvarez dal Bari sempre al Palermo potrebbe essere in arrivo, però non vorrei perdere il filo di questo discorso che mi sembra molto, molto interessante. Notavo una io credo che ci sia un tantino in Europa questo effetto Barcellona, ne ha parlato in nazionale, sentiremo dopo una dichiarazione di Pirlo in proposito. Leggevo stamane che quando lunedì sera è cominciata la partita Barça-Villarreal c'era tutta la nazionale schierata, non dico a prendere appunti davanti alla TV, comunque a darci un'occhiata bella, bella documentata. Mi pare che stia nascendo in Europa il gusto di giocarsene di più, il gusto di non fermarsi, il gusto di ricamare. Addirittura notava stamattina la Gazzetta dello Sport, mi pare Paolo Condò, un'osservazione che mi è molto colpito e trovo molto pertinente. Non so, il Manchester City con tre nanerottoli o comunque tre piccolini sta, che sono appunto Nasri, Silva e Agüero, mi sembra che abbia si sia messo un po' a riprodurre la situazione Xavi Messi Iniesta, no? Vuol dire che è una lezione che è partita da là. Eh sì, è una lezione che è partita da là e che fra l'altro ha convinto tanti club a mettere in panchina allenatori molto giovani. Pensiamo anche all'Italia, il Milan con Allegri, la Juventus ci aveva provato con Ferrara e ci prova adesso con Conte, la Roma con Luis Enrique, quindi evidentemente l'onda lunga del Barcellona sta raggiungendo un po' tutta l'Europa. Se sulle panchine io ho dei dubbi che questa onda sia riproducibile, perché bisogna valutare innanzitutto quanto è bravo Guardiola, e non sempre è facile essere bravi come Guardiola, e quanto Guardiola poi ha potuto pescare dalla sua famosa cantera, sì. Adesso naturalmente tutti ne parlano, però ovviamente poi per riprodurla ci vanno almeno 15-20 anni, per quel discorso lì, quando c'era Cruyff in panchina, quindi insomma parliamo di 4 lustri fa più o meno. Però è interessante invece il fatto che si torni ad un tipo di football, come dire, più tecnico e meno muscolare, potrei dire. Sì. Un tipo di football dove se uno è alto 1,65 m, 1,70 m, tanto per accettare la statura di Messi, che non so nemmeno se 1,70 m ci arriva, non gli viene preclusa la porta della prima squadra, insomma, non è necessario essere decatleti, ecco, per giocare a calcio, si può essere tranquillamente dei normodotati o addirittura dei brevilinei, e in questo caso facendo sudare il pallone, secondo vecchia edizione di Lidl, possono ottenere comunque dei grandi risultati. Io che distingo molto l'atletica dal calcio, penso che sia un vantaggio per il calcio, se a sudare il pallone sono un po' meno i giocatori. Sì, certamente sì, poi per carità questa non è una regola assoluta, perché Dzeko ha un fisico impressionante, due o tre di quelli del Manchester che hai citato prima mettono paura solo a vederli, da un punto di vista... Il fatto è che deve essere uno sport aperto a tutti. A tutti, certo, è l'universalità del calcio, questa è la base. E per fortuna, grazie al Barcellona, ma non solo a loro, e qualcuno adesso comunque ha imparato questa lezione, il calcio è tornato a essere, per l'appunto come hai ricordato, meno muscolare e più aperto a tutti, anche a quelli che apparentemente potrebbero fare sì e no gli piegati del catasto, no? Visti per strada. E poi invece il talento ce l'hanno. Dunque, Koné, che è un centrocampista greco, va dal Brescia al Chievo. È concluso l'accordo tra Inter e Genoa per il passaggio di Palacio all'Inter, ma è concluso nel senso che Inter e Genoa sono d'accordo sulla valutazione. Adesso il Genoa ha 4 ore di tempo per trovare un'alternativa a Palacio, e sinceramente 4 ore non è 4 ore e mezza, no, 4 ore e 37 minuti non è che siano questo granché. Nicola, io chiuderei con una osservazione di cui ringrazio uno dei più fedeli degli abbonati dei nostri ascoltatori. Si chiama Alessio Maffucci e scrive da Pistoia, che fa questa riflessione. Secondo me, su queste goleade e sul fatto che altrove all'estero si infierisca senza che ci sia nulla da dire, come invece capita da noi per, che ne so, Roma Catania per esempio, influisce il parametro che prima di tutto viene preso in considerazione in caso di arrivi a pari punti, è quello della differenza reti. E cioè, mentre da noi contro gli scontri diretti, oppure prima c'era lo spareggio, quello che è, ci sono questi campionati inglese e tedesco in particolare in cui vince chi ha a parità di punti, ovviamente, chi ha la differenza reti migliore. E non mi sembra un'osservazione da poco. È vero, è un incentivo comunque a giocare fino all'ultimo minuto, è una cosa che io sottoscrivo, anche perché la gente il biglietto lo paga per 90 minuti, resto anche dell'idea che si rispetta molto di più l'avversario non fermandosi. Immaginiamo, non so, proprio questo Manchester United Arsenal, e poniamo che sul 6-1 per il Manchester i giocatori del Manchester avessero cominciato a fare i torelli in mezzo al campo, sì, quasi a dire agli avversari: ma non infieriamo su di voi. Beh, io al posto dei giocatori dell'Arsenal mi sarei sentito molto molto più umiliato. Non c'è niente di peggio, a mio parere, di vedere un avversario che si ferma o di sentire il famoso applauso di incoraggiamento, certo, quello che smonta. Cito un piccolo aneddoto personale. Nella mia infausta carriera di giocatore di calcio, quando ero ragazzino, giocai portiere in una squadretta del torinese contro il Torino, a livello di giovanissimo, allievi, non ricordo. Allora il Torino era una squadra seria, aveva un bivaglio molto serio. A un certo punto, sull'8-1 per il Torino, io giocavo in porta, arrivò l'applauso di incoraggiamento. Ecco, avrei preferito che la partita fosse finita 20-1, ma senza quell'applauso di incoraggiamento, che ci ammazzava definitivamente. Anche il nanetto ci hai regalato oggi. Grazie, Nicola. Grazie Gigio, saluto agli ascoltatori. Grazie. Chiudiamo questo collegamento. Io torno un attimo per illustrare il display. Dunque, la soluzione che vi ho detto da questo rebus, cioè Inter e Genoa ha raggiunto l'accordo per Palacio. Il problema è che Genoa adesso deve trovare un giocatore che prenda il posto di Palacio. È in corso un contatto tra Genoa e Lazio per parlare di Zárate, e questa potrebbe forse essere la soluzione. C'è da un po', per la verità, un ascoltatore in onda. Volevo soltanto prima controllare il secondo lancio dell'agenzia che riguarda l'incidente successo a Bettini. Bettini e il suo compagno di viaggio hanno all'improvviso perso il controllo di questo ultraleggero, hanno visto il vetro oscurarsi, così hanno raccontato, e sono precipitati a circa un paio di miglia dalla costa. Il pilota, che non era Bettini ma che era l'amico, è riuscito comunque ad ammarare, dopodiché se la sono cavata nuotando in direzione della costa, e sono stati soccorsi da questo moto peschereccio che poi ha allertato la guardia costiera. Condizioni sarebbero buone, solo Bettini avrebbe una leggera lesione a una gamba, che insomma, credo che dopo un'avventura di questo genere uno una firmetta la potrebbe anche fare. Antonio ha chiamato dalla provincia di Venezia, buongiorno. Gigi, buongiorno e bentornato. Grazie. Così, volevo chiedere la sua opinione, essendo io un tifoso romanista, che cosa ne pensa del progetto, diciamo così, statunitense, collegato soprattutto a Luis Enrique. E poi, così, io le manifesto personalmente la mia insoddisfazione per queste prime uscite, e dopo in tutta onestà non vedo come dire, la luce davanti a questa squadra. E poi una domanda un po' provocatoria: secondo lei arriverà a fare 4 partite prima di essere esonerato, oppure di autoesonerarsi? La ringrazio. Ma dunque, autoesonerarsi non credo, non mi sembra il tipo Luis Enrique. Il progetto è stato ancora recentemente difeso da Di Benedetto, no? Dal nuovo patron della Roma. Che ci sia qualche scricchiolio sinistro, insomma, è innegabile. Che la Roma stia cercando di correre i ripari con acquisti dell'ultima ora, è il caso di dirlo perché sono davvero le ultime ore queste di mercato, è altrettanto vero. Comunque un danno grosso è già stato fatto, su questo non c'è dubbio. Poi io non so se vada imputato alla società, se vada imputato a Luis Enrique. Quando tutto cambia, le responsabilità sono più difficili da collocare, da destinare, no? Da individuare. Ma certo uscire al primo turno dallo Slovan Bratislava, mi pare, dalla ex Coppa UEFA, insomma, da quella che adesso si chiama Europa League, beh, mi sembra molto grave. Molto grave per la Roma, ancor più grave direi che lo è stato per il Palermo, anche perché la squadra da cui è andato fuori il Palermo, il modesto Thun svizzero, sinceramente mi sembra pure peggio dello Slovan Bratislava. Ma in ogni caso queste due squadre hanno fatto il danno proprio, ma il danno anche del calcio italiano, perché noi continuiamo a perdere posizioni nel ranking europeo e già in questo primo mese di attività internazionale, cioè con questi turni preliminari, con queste cose, già siamo di nuovo scesi nel ranking, a vantaggio di Francia, a vantaggio di Portogallo, a vantaggio di altre nazioni che invece queste manifestazioni le affrontano seriamente. Quindi mi pare che le riflessioni da fare siano tante e non riguardino soltanto, sì, riguardano per esempio in particolare queste due società, se parliamo di inizio stagione, però mi pare che possano riguardare anche altro. Chiudiamo direi questa prima parte con un invito di Crescito. Dunque Crescito è un nazionale, come ben sapete, ex genoano, che quest'estate ha raggiunto lo Zenit di San Pietroburgo e che adesso invita Bonucci dalle sue parti. Sentiamo. Da compagno di squadra di Leo lo spero, perché conosco le qualità di Leo e quindi spero che possa raggiungermi a San Pietroburgo. Ho parlato benissimo della città, della squadra, comunque lì in Russia mi sono subito ambientato, perché ho trovato anche una squadra che mi ha accolto molto bene e ho trovato uno staff tutto italiano. Oh, vi dicevo di queste triangolazioni di mercato meravigliose, no? Gonzales che passa in giro di un mese e mezzo, insomma, dal Novara a Palermo al Siena, Piovaccari che passa dal Cittadella alla Sampdoria a un'altra parte che potrebbe essere il Parma, Ziegler che passa da Sampdoria alla Juve al Trabzonspor, vi ho appena detto prima. Non credo, perché Ziegler ha appena dichiarato: resto alla Juve anche se Conte non mi vuole, che insomma, non mi sembra male. Entriamo con poche novità adesso, mi pare che la raffica principale di novità di mercato al momento si sia esaurita. E allora, in attesa che altre ne maturino, potremmo per esempio andare a Coverciano, dove Pirlo ha parlato di questo nuovo modello Italia che si sta delineando e che d'altra parte si è già visto in maniera molto positiva. Molto, insomma, in maniera positiva, perché poi era estate, in ogni caso contro i campioni del mondo della Spagna. Sentiamo Pirlo. C'hanno una cultura, un gioco veramente entusiasmante, si conoscono a memoria, veramente uno spettacolo vederli giocare, e in questo momento penso siano imbattibili. Una cultura che nasce fin dalle loro cantere, iniziano a giocare così e pian piano, quando arrivano in prima squadra, sono già bravi, e quando entrano in quella squadra lì diventano campioni. Qua in nazionale stiamo cercando di cercare di giocare in quel modo, ci stiamo provando pian piano, giorno dopo giorno, però sicuramente è un modello che vogliamo avvicinarci. No, a me piace tenere palla come fa il Barcellona, però quando c'è poi da verticalizzare, cercare di mettere l'attaccante in porta. Sono due culture diverse che però in questo momento vedere giocare le squadre spagnole è veramente divertente. C'è tanta gente di qualità, tanta gente che sa giocare bene il pallone, quindi è giusto provarci. È un'analisi abbastanza a tutto tondo quella fatta da Andrea Pirlo. Adesso visto che qualche ascoltatore sollecita ogni tanto una finestra sulla Serie B, beh, mi pare che un fatto abbastanza nuovo, non nuovo in assoluto, ma insomma nuovo dopo un bel po' di tempo, ci sia, e cioè questo primo posto in classifica di Zeman alla guida del Pescara. E allora sentiamolo. Non direi una partita giocata da tutte e due squadre, poi ci sono errori da una parte e dall'altra, e sono contento, sono due squadre che sono abbastanza giovani e succede. Io sono contento che la mia squadra è riuscita a prevalere, penso anche con merito, visto che qualche palla gol in più abbiamo costruito noi, e sono contento contro un avversario importante di fare il risultato positivo. E questo era Zeman dopo la seconda vittoria consecutiva del Pescara, che ha portato gli abruzzesi in testa alla classifica. Sempre in attesa di altre novità di mercato, Alessandro ha chiamato da Ferrara. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alessandro. Grazie. Volevo sapere, sono una domanda al volo, io sono ignorante in merito. Juventino, ma chi è questo Elia? Questo Elia è un esterno dell'Amburgo, adesso si chiamano esterni, non mi faccia dire terzino o ala, perché sa che è un esterno alto o basso, è un esterno alto, un esterno altino, ma non parlo di statura, parlo di collocazione, perché se qui cominciamo a parlare di terzini, di ali, ok, ci battezzano definitivamente come dei sorpassati. Quindi è un esterno che ha preso dall'Amburgo, che ha pagato caruccio, mi pare, e era uno dei tanti obiettivi. La Juventus ha cambiato tantissimo quest'anno, io credo che lo faremo domani magari il conto totale di quanti sono stati i movimenti in entrata e in uscita. Certamente più in entrata al momento, infatti mi pare di capire che ci sarebbe anche un'esigenza di realizzare adesso, ma c'è gente che non se ne vuole andare, anche perché ha dei contratti, come dire, discretamente remunerativi, faccio un caso qualunque, Iaquinta. E prima di convincerli a cercare un'altra soluzione, avendo un contratto firmato, a parte che poi Iaquinta adesso è infortunato e non è la prima volta che accade in questi anni, beh, insomma, da lì a muoversi bisogna trovare il modo di convincerli, ecco. Alessio ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, un piacere di parlare con lei. Primo. Grazie. Grazie a lei. Allora, volevo dire, penso che abbiamo un po' snobbato troppo il nostro campionato, nel senso anche sottostimato, visto i campionati europei, nel senso come la Spagna, dove ci sono due squadre, come parlavate prima, in Inghilterra ce ne sono due, è quasi la Scozia, dove Celtic e Rangers si dividono le vittorie. Ma qua quante ce n'è però, detto tra noi? Beh, almeno quest'anno forse 3-4 squadre se lo possono quasi giocare, però non siamo sicuri di chi vincerà, al contrario che tra Inghilterra e Spagna, per esempio, sono quelle due lì. Tutto qui, dicevo, nel senso, almeno tra di noi non abbiamo la sicurezza nel nostro campionato di chi lo vincerà. Ma lei lo sa quanti anni sono che in Italia vincono esclusivamente Milan, Inter e Juventus? Sì. Oppure Juventus, Inter e Milan, oppure Inter... Sì, in effetti, certo, però negli ultimi anni, in effetti è vero anche questo. Ecco, mi ha ucciso. No, Alessio, non avevo assolutamente questa intenzione. Intendo dire però che in Europa si sta sviluppando in maniera ancora più macroscopica un fenomeno con il quale noi però dobbiamo fare i conti da un sacco di anni ormai, e più di quanto nel frattempo non l'abbiano fatto all'estero, perché forse soltanto in Spagna questa cosa si è così radicalizzata in questi ultimi 2-3 anni. Ma altrove, intanto in Germania si vince con discreta alternanza. In Francia c'è stato un lunghissimo ciclo del Lione che è durato, mi pare, 7 scudetti consecutivi, ma che poi però da due stagioni è ampiamente concluso. In Germania, vecchia frase facile, 1 su 3 in media il Bayern lo vince, ma 1 su 3 però gli altri due, una volta è Dortmund, una volta è Wolfsburg, una volta è Schalke, una volta è Hamburgo, insomma c'è un'alternanza molto ragionevole. Se c'è un paese calcistico dove storicamente da vent'anni almeno dai tempi della Sampdoria e prima del Napoli l'alternanza è finita, è proprio l'Italia. Quindi io non credo che siamo noi i più indicati a a parlare o comunque a sparlare dei monopoli di club che esistono nelle altre nazioni europee. Davide ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo fare una considerazione sul mercato. Viene tanto criticato da parte dei tifosi dell'Inter il mercato della squadra nerazzurra. Io non lo vedo così, diciamo così, scandaloso, perché a differenza degli altri anni, secondo me ha fatto più le cose con un senso, perché comunque se c'è il fair play finanziario lo sta attuando. Vedo, diciamo, scandaloso tra virgolette il mercato di Roma e Juve, che hanno fatto questa grande rivoluzione. E secondo me neanche, diciamo, con un senso, perché soprattutto la Juve, a parte Pirlo, aveva un gran bisogno di un centrale difensivo di livello. Invece vedo che continua a prendere giocatori quasi a caso, nel senso, questa è la mia opinione. Grazie, ascolto per radio. Ma io la mia opinione è che io non so se la Juventus abbia fatto le cose per caso o meno, mi sembra che molto per caso l'abbia fatta anche l'Inter comunque, e in ogni caso se c'è delle ultime stagioni una stagione in cui ai nastri di partenza l'Inter si presenta in maniera un po' ridimensionata, mi pare questa. Tant'è vero che mancano 4 ore e 18 minuti adesso alla fine del mercato, e sono lì che stanno cercando di completare la rosa con, adesso leggo sul display proprio in questo istante, Zárate, cioè se non arriva a Palacio arriva Zárate. Per carità, non sto mica dicendo che siano brutti giocatori, insomma, però rispetto ai tempi in cui era già arrivato Eto'o, faccio per dire, piuttosto che Snyder o piuttosto che giocatori di quel calibro, beh, insomma, era un tantino diverso. Il fatto stesso di non aver saputo scegliere sin dall'inizio qual era la pedina o quali erano le pedine in uscita, in maniera poi da programmare i rafforzamenti, mi pare che non depongano molto. La sensazione, poi ci sarà tempo per parlarne, insomma, la sensazione è che al nastro di partenza di questo campionato si presenta un Inter che il suo ciclo l'ha finito. Poi può darsi che riesca a riprenderlo, a rigenerarlo e magari ad aprirne anche un altro, ma qualche dubbio secondo me è abbastanza lecito. Giuseppe ha chiamato da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Se mi permette volevo fare una piccola precisazione, visto che sono di Novara, Gonzales è stato questo dal Palermo nel mercato di riparazione dell'anno scorso, quindi a gennaio. Sì, però poi ha giocato a Novara fino all'ultima giornata. Sì, fino a fine stagione, esatto. Quindi, poi adesso è stato girato al Siena. Sì, io parlavo, no, io capisco, lei, come precisazione è giusto se parliamo dell'affare. Sì. Se parliamo di maglia, io parlo di questi, cioè, quello che mi colpisce, questi girotondi cromatici, no? Per cui questo che è stato azzurro fino a metà giugno, perché il campionato di B mi pare finisca a metà giugno, è diventato rosa o rosa nero per un paio di mesetti e adesso non mi ricordo, il Siena è bianco nero, mi pare sta per mettere bianco nero. Io, per carità, sono finiti i tempi, sempre per ragione della grafica dico queste cose, sono finiti i tempi dei calciatori bandiera e dei giuramenti di fedeltà. Oggi i giuramenti di fedeltà si fanno segnando un gol per sbaglio, andando a battersi la mano sotto la curva, rigorosamente sotto gli ultra più violenti e magari anche ripugnanti. Questo oggi è diciamo l'attaccamento calcistico, che è una roba un po' diversa. Dopodiché dica e le chiedo scuse. Sì, poi volevo anche chiedere un'altra cosa. Non le pare che questo mercato, quest'anno della Juventus, sia un po', come dire, arruffone, cerca di trovare giocatori qua e là senza però acquisti precisi, mirati? Arruffone, ho l'impressione che lei abbia trovato un aggettivo da non confondere con arraffone, intendiamoci, però arruffone mi sembra che lei abbia centrato l'aggettivo. Io ci aggiungerei quasi anche schizofrenico, insomma, no? Nel senso che mi è sembrato, non solo a me, mi pare di capire, mi è sembrato il gusto, l'obbligo di cambiare per cambiare, ecco. E forse questo non è una grande consigliera. È vero anche però, che la Juventus ha cambiato, a parte che arriva a due fallimenti consecutivi almeno, e quindi che dovesse cambiare non c'era dubbio, ma ha cambiato proprio il progetto tecnico stavolta, no? Tecnico e tattico, e quindi ha dovuto cambiare molto per cercare giocatori di altre caratteristiche che servissero a questo nuovo progetto. Adesso è ovvio che l'augurio che le va fatto da parte di chi le vuol bene è che questo progetto funzioni, perché se dopo due fallimenti di progetti, diciamo pure tradizionali, abbastanza tradizionali, anche se poi quello di Del Neri lo era fino a un certo punto, questo è un progetto, non dico rivoluzionario, comunque certamente di un segno molto diverso e con caratteristiche personalizzate, dovesse andare male anche questo con tutto quello che ha comportato di esborsi e di giocatori presi per quel tipo di calcio, beh, dovesse andare male sarebbe un disastro, insomma, e quindi io non resta che augurarle che così non vada. Dunque la Fiorentina ci prova per Ramirez, che è il trequartista del Bologna, mentre l'Atalanta è in bilico tra Rolando Bianchi e Floccari per il ruolo di centravanti, e in entrambi i casi mi pare che si tratterebbe di un ritorno, perché tutte e due sono stati già centravanti dell'Atalanta. La cosa curiosa è che Rolando Bianchi in teoria dovrebbe scendere in campo stasera alle 20:45 nel posticipo Torino-Cittadella, ma è già da ieri che il bravo nuovo allenatore del Torino Ventura sta facendo gli scongiuri, perché ha come la sensazione che partita 20:45, mercato che si chiude alle 19, insomma, mi pare di aver capito leggendo stamane che se tra Rolando Bianchi e Ogbonna gliene resta almeno uno dei due da far giocare stasera, già sarebbe abbastanza contento. Ci sono ancora molti ascoltatori che mi chiedono di intervenire, c'è una voce, un altro passaggio di questa lunga intervista rilasciata da Pirlo nel Ritiro Azzurro da ascoltare, sempre in attesa di altre notizie che arrivino. Beh, dagli US Open arriva l'eliminazione della Errani in due set da parte della Kuznetsova, anche Brianti perso 7-5-6-3. Potito Starace invece ha superato il turno in 4 set contro Berrer, un tedesco. No, al momento novità di mercato, ma insomma, ma questi 10 minuti che mancano qualcosina magari fuori salterà ancora. Marco, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno a lei, Gigi. Dica. Piacere di sentirla. Volevo telegraficamente un suo parere su Forlan, che secondo me è stato forse il miglior acquisto fatto in questo calciomercato in generale, nel senso un giocatore che segna e soprattutto un serio professionista, insomma, sono, di questi tempi. Sono d'accordo, cioè Forlan è un eccellente acquisto, non dimenticherei che arriva a sostituire Eto'o, che non era esattamente l'ultimo degli infelici, no? Quindi, certo. Quindi diciamo che avendo perso Eto'o, l'Inter secondo me ha giocato una carta eccellente, per il mio. Guardi, i due attaccanti migliori che secondo me si sono spostati in estate, parlo di squadre italiane, evidentemente, ma sono giudizi molto personali questi, sono Forlan all'Inter e Vucinic alla Juve, perché sono due giocatori che oltre a dare tu alla palla e ad avere il senso della porta, sanno giocare a pallone, sanno stare in campo, sanno far, come si dice oggi, salire la squadra, sanno interpretare le fasi della partita, sanno temporeggiare, sanno affondare e poi hanno grandi qualità oltre che il fiuto del gol. Io credo che le due mosse principali, se parliamo di attacchi, siano state quelle: Forlan all'Inter e Vucinic alla Juventus. Pier Giorgio, dalla provincia di Padova, buongiorno. E buongiorno signor Gigi, grazie per la possibilità. Due cose brevissime. La prima sul campionato scorso: secondo me è stato un bel campionato, soprattutto quello per le squadre centrali, Chievo, Palermo, Roma, Napoli e così via, che forse ci ha dato lo spettacolo migliore. E per quanto riguarda il mercato della Juve, giustamente prima ha detto un po' schizofrenico, mi ricordo un po' il mercato del Milan che faceva anni fa, quando veniva eliminato in Coppa, e si comprava il giocatore tipo, non so, Blomqvist, mi sembra, che segnava il gol di Coppa, eliminava il Milan, e quello veniva acquistato. È un po' un mercato senza dei punti veri di riferimento, ecco, forse. Questa è la mia impressione. Sì, No, io il Milan non mi è venuto in mente, nel senso che non mi sembrava e non mi sembra un riferimento il Milan di quegli anni, intendo quello a cui alluderei. Le ripeto, la Juventus si è, insomma, era partita più cauta, secondo me, più guardinga, no? Era sembrato. E poi invece è stato come se a un certo punto avesse deciso di accontentare tutto sport, non so come dire, cioè che dato che ci vogliono almeno 15 trattative al giorno, 10 in entrata e 5 in uscita possibilmente, tutto questo si è scatenato. Ora, probabilmente è derivato, io credo, dalla consapevolezza che non c'erano grandi rafforzamenti altrui e che quindi era più facile diventare competitivi al vertice subito, o comunque meno difficile. E può darsi che poi questo meccanismo abbia preso un po' la mano, dopodiché poi è il campo che parla, perché adesso siamo, insomma, dobbiamo ancora vederle queste squadre giocare, a parte l'anomalia di un mercato che finisce il 31 agosto quando il campionato avrebbe già dovuto essere iniziato, perché doveva partire il 27, poi è arrivato lo sciopero e quindi in realtà fa tempo a finire il mercato prima che le squadre si vedano, ma poi è la prova del campo che decide. Queste sono considerazioni come dire interlocutorie, preventive. E comunque non è accaduto niente di così perentorio come nel finale di mercato dell'anno scorso, perché lo scorso anno, l'ultimo giorno, il penultimo giorno, non ricordo, cambiò comunque la geografia del campionato, ma cambiò davvero, perché fino a quel momento c'era un Inter nettamente in pole position, beh, insomma, Ibrahimovic e Robinho che piombano nel Milan, era chiaro sin dal primo istante che avrebbero cambiato il rapporto di forze. Poi vincere o non vincere, si è visto dopo che si è arrivati anche a quel punto, ma che il rapporto di forze fosse cambiato automaticamente, bastava l'arrivo di quei due giocatori, soprattutto del primo. Marco Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. No, mi ha un po' anticipato nella risposta che dava sulla Juventus. Volevo fare una considerazione generale di mercato. Io sono un simpatizzante della Juventus e penso che anche quest'anno si farà una figura forse come l'anno scorso, perché non lo so, però cambiare sempre così senza avere un disegno ben preciso molto probabilmente non so dove si possa andare. Se Conte disgraziatamente perde 3-4 partite di fila, magari i dirigenti cominceranno a fare già sparate e promesse per l'anno prossimo, insomma. Volevo fare un paragone anche l'Inter quest'anno, che è un po' forse un'incognita, perché ha cambiato un allenatore che è arrivato forse per tappare qualche buco, che però io personalmente stimo molto insieme a Allegri, vista la solita scuola, diciamo, no? Se avesse una società solida come poteva essere il Milan, quindi come ha avuto Allegri l'anno scorso, probabilmente Gasperini penso che all'Inter potrebbe fare bene, però questo allo stesso tempo dà una grande incognita, perché non si sa bene, no? Visto l'ambiente, visto tutti i senatori che c'ha l'Inter all'interno, perché Gasperini penso li farà se non altro correre molto, gli chiederà questo, non so poi fino a che punto anche loro vorranno spremersi e saranno collaborativi. Un'idea su questo. Sono tutte domande a cui troveremo risposta a partire dal 9, dal 10, insomma dal giorno, dal momento in cui il campionato comincerà davvero. C'è Gastaldello forse in arrivo alla Juventus, questa è una cosa dell'ultima ora. La Sampdoria ha bloccato Gastaldello per la Juventus, almeno per questo, no, ho capito male, adesso la riformulo tra poco, perché ci sono due fonti contrastanti. Allora facciamo così, ci sentiamo nel frattempo la seconda parte anche perché così torniamo a un argomento portante di questi giorni, la seconda parte dell'intervista rilasciata a Coverciano da Andrea Pirlo. Noi abbiamo fatto di tutto per giocare fino all'ultimo, solo che magari le società preferivano non giocare, avevano altri interessi e purtroppo non è stato trovato un accordo dove magari con un po' di buon senso si poteva fare, quindi alla fine il problema sono stati i calciatori, come la gente parla o sente, però noi volevamo giocare e purtroppo c'era qualcuno che non voleva farlo. Ma speriamo che si mettano d'accordo in questi giorni, anche perché i due punti, uno l'hanno tolto e l'altro non dovrebbero esserci problemi, quindi con un po' di buon senso penso che si dovrebbe giocare. C'è stato magari un conflitto tra giocatori e società, per altri problemi, però magari la politica in questo non doveva neanche entrare. Però siccome quando si parla di calciatori vogliono mettere il becco un po' tutti, è stato così anche questa volta. Ma non c'è nessun problema, perché le tasse le abbiamo sempre pagate, se dovessero mettere altre faremmo lo stesso, quindi per noi non sarebbe un problema, l'importante è che lo facciano tutti. No, la notizia era stata che riguarda Castaldello era esattamente al contrario, cioè la Juventus ha chiesto ufficialmente Castaldello alla Sampdoria e la Sampdoria ha risposto che Castaldello è incedibile. Francesco, chiamato da Trento, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sul discorso di mercato, delle anomalie, il giocatore che da Palermo dopo due mesi già viene venduto, e facendo un discorso più generale, la domanda che viene spontanea è se non ci sia altro che noi non sappiamo su questi movimenti economici particolari, perché tutti i precedenti sostengono che l'investimento nel calcio deve essere fallimentare, che ci si perde, basta, è solo la passione che comanda. Poi si vedono presidenti come Spinelli che di professione erano i presidenti di squadre, uno Zamparini di Venezia che si compra il Palermo, girava voce prima che Lotito comprasse la Lazio, voleva comprarla quello della Geox, Polegato. Ora gente che fino a ieri sono geni nel fare miliardi e di colpo diventano scemi nel comprare squadre di calcio e perderci, suonano strani insomma a chi muove denaro. Quindi che forse dietro tutti questi movimenti dichiarati ci siano altre motivazioni che a noi terreni umani sfuggono, insomma il dubbio viene. Ecco, lei dice, Francesco? Ecco, questa è la mia perplessità da anni, sì, nel mondo, sì, del calcio. Dico anch'io, Francesco, se le può essere di conforto, perché insomma, quando si sa, non si legge, quando si sa che ci sono società che hanno 40 giocatori a libro paga, a ruolino, diciamo, tant'è vero che la Serie A di oggi, che come è noto è demenzialmente a 20 squadre, ne vanta circa 800 di giocatori di Serie A tesserati, beh insomma, posto che più di 25, proprio a esagerare, 26, 27 non se ne usano in un anno, qualche ragione per averne così tanti, salvo poi denunciare ovviamente il contratto, articolo 7 eccetera, evidentemente ci saranno, abbiamo già parlato, ne parleremo ancora. Grazie nel frattempo a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.